poi tutte le cose che hai perso, ma quelle te ne accorgi dopo e non dai più valore dopo alle... non sono importanti, insomma, sono meno importanti, sì, se ne vanno tutti tanti ricordi che avevi, che ci tenevi. Dopo il terremoto si dà un valore molto diverso alle cose, a tutte le cose. Quando torno vedo le novità che ci sono, però vedo che non è la stessa, non è lo stesso posto in cui io magari sono cresciuta. Quindi a volte ci penso e dico, cavoli, ma non so, ai miei figli cosa gli faccio vedere, come gli faccio spiegare questo posto, com'era prima, perché poi fa ridere perché adesso quando vengono amici da fuori, persone insomma che non sono di qua, le storie sono sempre prima del terremoto e dopo il terremoto. È come se passandoci... Tu vedessi due posti, no? Cioè nel tuo ricordo che vedi, non so, il palazzo come era prima o quella, non so, adesso ad esempio ci sono tanti palazzi quando vai in centro che li hanno proprio buttati giù, quindi tu vedi dietro. Prima vedevi il palazzo, adesso vedi cosa c'è dietro. Anche questa è una cosa che è stata strana perché, sai, quando cresci tu vedi le cose e ti pensi che siano così sempre. Oppure, non so, anche vedere il palazzo rinnovato, queste case nuove che adesso le stanno facendo tipo super colorate, sono bellissime, a me piacciono un sacco, dico sempre, cavoli, secondo me diventerà proprio bello. Però mi ricordo ancora com'era prima, prima era autentico, prima era un'altra cosa, quindi è come se tu vedessi tipo con gli occhiali o con una lente, vedi il prima e il dopo, però non lo puoi spiegare, cioè lo sai così. Ma in realtà a me ricorda molto anche come quando ci andavo con i miei nonni o con i miei che mi dicevano, ah, ma qua una volta c'era la gelateria del centro, adesso c'è una profumeria. È un po' la stessa cosa, diciamo, perché le cose poi cambiano sempre, però alla fine la geografia è quella da centinaia di anni, però si evolve, va avanti e noi dobbiamo andare avanti con essa.